Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Qualche secondo dopo le 21, buonasera da Agostino Spolaore, buonasera anche dal mio compagno ormai inseparabile. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Eccezionalmente oggi è un mercoledì e domani non ci sarò. E domani non ci siamo proprio, assolutamente. Dobbiamo rendere omaggio alla nostra nazionale. Ma no, ci siamo venerdì in ogni caso. Però ci siamo venerdì, abbiamo spostato di una settimana, di un giorno, di una giornata l'intervista del giovedì, quindi mi raccomando non mancate domani venerdì sera dalle 21 alle 22:30 con Cecilia Luce. Però questa sera eccezionalmente dicevo perché abbiamo comunque un live storico dalle 22 alle 24 con il Rock Wave, ma prima abbiamo una telefonata in diretta che intanto ne approfitto già subito per salutare. Ciao Tobia. Ciao a tutti. Tobia Lamare and the Sellers, il tuo gruppo. Sì. Benvenuto a Blu Radio Veneto, però resta lì, non ti muovere che devo dire qualche altra notizia. Vi ricordo, le nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza. Poi vi ricordo ancora il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare tranquillamente in streaming 24 ore su 24 tutti i giorni, insomma non c'è scampo, insomma chi volesse ascoltare la radio la può tranquillamente ascoltare tutti i giorni e in diretta, assolutamente in diretta. Poi vi ricordo le nostre pagine di Facebook che sono semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che salutiamo se magari ci sta ascoltando. Dopo arriverà. Ah, dopo arriva? Sì, dopo più tardi, sì. Benissimo. E poi ancora i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346-23-20-033. Credo di aver detto tutto, Agostino Spolavore, Maurizio Calzavara, ma soprattutto Tobia Lamare. Ciao Tobia! Ciao, eccoci ciao qua. Eccoci qua, Tobia Lamare and the Sellers. Anche se gli ascoltatori dobbiamo rivelare questo, Tobia Lamare è un pseudonimo, lui si chiama Stefano, però noi ti chiamiamo Tobia Lamare, va bene Stefano? Anche mia madre mi chiama Tobia. Ecco, benissimo. Se lo fa la mamma lo possono fare tutti. Esattamente, questo siamo perfettamente d'accordo. Secondo album, primo ha avuto un grande successo di critica secondo me e anche un grande successo qui a Blu Radio Veneto, un disco molto interessante il primo, un disco psichedelico nato da una comune, da una fucina nel Salento, Tobi, è così? Sì, beh sì, io faccio, abito in una masseria, che la masseria Lobello. Una comune musicale intendo, sì. Assolutamente. Sì, in questa masseria praticamente c'è un incontro di diverse realtà, cioè, ovviamente quando c'è luogo, quando c'è uno spazio, poi ovviamente c'è anche aggregazione. E io quello che ho provato a fare negli anni è, diciamo, ospitare persone, ospitare artisti di passaggio, eccetera. E quindi infatti i Sellers poi vengono fuori così, nel senso sono una famiglia molto larga. Dal disco si vede, ci stanno parecchi ospiti, certo. Ma dal live molto spesso ci stanno delle contaminazioni esterne, diciamo, in diversi live, è una formazione molto duttile che a volte può anche cambiare. Certo, dobbiamo sottolineare contaminazione, tu fai il DJ anche, quello è importante, tu fai il DJ, il DJ è l'esperienza di DJ che fai durante l'anno a Salerno e nei dintorni, praticamente è stata una fucina non da poco per sviluppare i progetti con la band. Sì, comunque considera che l'estate salentina è un'estate molto lunga e finisce in realtà a ottobre, diciamo. Ah, quindi è molto pronunciata, insomma, si va avanti. Cioè, qua fa caldo fino fa parecchio caldo fino a ottobre, quindi diciamo che c'è sempre un po' questa voglia, questa area di festa. Ovviamente quando ho iniziato a fare il DJ c'erano solamente, diciamo, c'era stata l'esplosione delle feste reggae, del Sound System, erano i primi anni 90, e non c'era più niente di rock and roll, quindi diciamo è stata una sorta di necessità organizzare dei party rock and roll, e poi si sono sviluppati, hanno preso anche altre pieghe, altre cose, e quindi poi è andata avanti così. Certo, questo è il secondo disco dopo un primo The Party, si chiama Are You Ready for the Freaks? Già il titolo dice qualcosa. Ci buttiamo ancora una volta sulla psichedelia, tra parentesi, tra virgolette, Tobia, cosa dici? Sì, assolutamente. No, poi guarda, quest'inverno ho riscoperto un po' dei miei ascolti più forti psichedelici, come Donovan o altre cose, ma poi tra l'altro mi hanno anche fatto scoprire artisti come Sixto Rodriguez, Gene Sullivan, diciamo, hanno fatto sì che la lancetta del riverbero arrivasse, diciamo, se prima stava ferma 4,5, adesso stava sugli 8,5. La ricetta del cari ascoltatori, è una cosa giusta, Tobia, la ricetta del riverbero, che nasce tutto da là, l'input è la ricetta del riverbero, riverberare tutto, creare, allungare, allargare i pezzi per poi farli in altra maniera, vero Tobia? Sì, sì, sì, è come la stessa cosa come in cucina, no? C'è un mio grande amico Don Pasta che dice: quando hai qualcosa non va bene, aggiungi olio. Quindi io dico: quando qualcosa non va bene, aggiungi riverbero. E va bene, si sistema tutto. Ok, cominciamo come sempre, al solito noi facciamo, ad aprire la finestra. Abbiamo scelto il primo brano da disco, da questo nuovo album, Tobia. Io ho scelto la traccia iniziale, perché la traccia iniziale praticamente rompe il ghiaccio in senso positivo del termine. Me la vuoi spiegare un momentino e anche dare il titolo? Sì, allora, Step by Step è un pezzo cui sono molto legato, un pezzo abbastanza poi solare in realtà, come sonorità e come atmosfere. In realtà è dedicata a tre miei amici che incredibilmente durante un anno si sono tolti la vita, quindi ha un senso abbastanza profondo a cui sono legato. E diciamo, io ho passato questo inverno un po' così, dove ci sono state queste cose. Poi è stato un po' strano perché anche ad altre persone vicine sono venute a mancare, diciamo, amici o familiari nelle stesse circostanze. Mm-hmm. Quindi è stata qualcosa di molto forte. E Step by Step è il senso di darsi, non darsi fretta, di avere calma, di fare tutte le cose passo dopo passo. Poi c'è una, io sono convinto che sempre, questo è un bellissimo posto, il Salento è un posto stupendo, e in estate ci passano tutti i mali, tutti i brutti pensieri che abbiamo nel cervello. C'è una strofa dove dice appunto che in pochi mesi poi arriverà il caldo del sole, del mare, insomma. E quindi è questo il senso della canzone. Benissimo, la sentiamo assieme. Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua. Step by step, un critico ha scritto così, Tobia, tu lo sai sicuramente, ma i nostri ascoltatori non lo sanno, ha parlato del Britpop, ha parlato di Robert Johnson, quindi del blues del Delta, e ha parlato dei Stone Roses, una miscela ideale ma veramente attuale e molto significativa per Step by Step. Sì, beh, guarda, comunque sono il Britpop, vabbè, io sono cresciuto col Britpop, i Stone Roses sono uno dei miei gruppi, i tuoi punti di riferimento di quando erano, diciamo, da adolescente. E invece Robert Johnson nel blues è, negli ultimi anni, come abbiamo parlato già altre volte, sì, insieme, è stata una folgorazione, possiamo dire, sì, una riscoperta, anche perché inizia a suonare la chitarra elettrica, la prima cosa che fare è il blues, quindi dopo poi con gli anni e con, diciamo, una certa maturità di ascolti, sono andato a ricercarle, a riscoprirle certe cose, e devo dire che hanno suscitano diciamo delle emozioni diverse poi quando le senti dopo un tot, dopo un periodo di tempo. Poi hai detto una cosa molto bella, una dichiarazione. Ti hanno fatto una domanda: qual è il musicista più significativo? Tu hai detto Bach, ragazzi, è Bach, perché Bach è il più significativo di tutti, anche se però il più significativo per te era un metallaro, è così? Sì, cioè io quando hanno fatto questa domanda ho detto, guarda, è molto difficile rispondere, no? Però ho pensato che il senso del musicista più importante per la musica è proprio difficile da trovarlo, ho detto che Bach per me ha inventato il pop, quindi senza Bach non ci sarebbero stati i bassi, i Beach Boys, non lo so, ha inventato tutto quello che ascoltiamo per me adesso, poi magari sto dicendo anche una fesseria, però questa è la mia sensazione. Però il metallaro ti ha portato un negozio di chitarre. Una volta che, non so come si dice in Veneto, ma qua in Salento si dice nargiare la scuola, cioè non andare a scuola, fare sciopero, quindi... avevo un argiato a scuola, ero andato nel primo negozio di strumenti aperto nella mia città e c'era un metallaro che stava facendo un tapping bestiale, che poi ovviamente io non ho mai imparato a fare, ma mi ha folgorato perché ho detto, ma dopo come si sta divertendo sulla chitarra. E due mesi dopo ne ho comprata una elettrica, me la sono fatta regalare per Natale, e lui è stato veramente quello che mi ha fatto capire, ok, devo suonare la chitarra, perché e sai, quando sei ragazzo magari provi a mettere mani su diversi strumenti, però prima di trovare il tutto ne passa un po' di tempo. E lui, insomma, mi ha... T'ha spinto? Quindi per me, sì, per me è stato lui che mi ha spinto, il musicista più importante della mia vita. Certamente, beh. Anche però, poi hai citato, chiaramente abbiamo parlato di Bach, hai citato Bob Dylan, maestro di tutto, sì, poi sì, ha citato altri cantautori e anche Donovan, e questo mi fa molto piacere. Donovan, sì, cantautore eccelso, il Dylan inglese, possiamo chiamarlo, che ha fatto anche della psichedelia, ha fatto delle ricerche, sì, molto bravo. Le sue ricerche poi sono perché Dylan ha avuto delle illuminazioni incredibili, ha scritto delle cose immense, ma poi ha prodotto anche degli album con un sound incredibile. Certo, certo. Donovan invece era proprio... ogni tanto sembrava... Cioè, era così semplice, era così lisergico. Sì. Che sembrava una miscela perfetta, era arrivata alla perfezione. Magari non si può mettere a paragone magari con quello che ha fatto Dylan, perché sennò magari poi... arrivano 40 telefonate in radio. però i donoviani di un certo... Però tra l'altro Donovan si conosce veramente poco delle cose interessanti. Ha fatto tante cose interessanti, tante partecipazioni importanti. Adesso mi piace un sacco un altro musicista che ha un nome assurdo, si chiama Donovan invece. Ah, sì. Esatto, sì, Donovan Frank Writers, esatto. Sì. Anche lui è un musicista un po' atipico, possiamo dire, un cantautore atipico, decisamente atipico. Sì. Assolutamente. Bene, andiamo avanti con questo Are You Ready for the Freaks, che ripeto è un disco molto vivace e è un po' diverso da, da The Party, Tobia. C'è qualche variazione secondo me. Sì, beh, comunque ci sono stati 2 anni in cui siamo andati in giro per l'Italia, per l'Europa, abbiamo incontrato musicisti, c'è stata una ricerca di suono, ho suonato anche tutte le chitarre elettriche in questo disco, anche nei concerti live adesso ho ripreso la chitarra elettrica in alcuni brani, quindi c'è una ricerca di suono diversa data anche da alcune esperienze, dal capire cosa funzionava di più, cosa funzionava di meno. E sono cambiati anche i musicisti in questo disco rispetto allo scorso. È cambiata la base ritmica e poi ci stanno altri guest, altri ospiti, insomma, che hanno aiutato anche nello scegliere alcune cose. Li possiamo citare, Tobia, i partecipanti al disco? Sì, vai. Sì. Allora, abbiamo un batterista che è Andrea Rizzo. E poi ci abbiamo 2 bassisti addirittura, non uno, Marco Santoroveri e Gianluca Mastina, Antonio Candido Junior all'armonica, Marco Ancona alla Lapsil, Gianluca De Rubettis e al piano elettrico e tastiere. Poi ci sono i Red Kid, sono una formazione di Dublino, sono i nostri cugini d'Irlanda che fanno un pezzo, fanno dei cori in un pezzo, e poi altre voci sono quelle di Pete Ross e Susie Sessire dell'Australia e Nuova Zelanda, e poi mi sto dimenticando sicuramente qualcuno. Abbiamo un coro anche gospel formato da 30 persone dove ci stanno un sacco di amici e di cantanti, non cantanti, bellissime voci, e poi mi sto dimenticando il terzo, il terzo che è su vocale, non mi sta venendo proprio in mente, mi ammazzeranno. In ogni caso è una impressione positiva, io e Agostino abbiamo sentito il disco, e, nel senso che è un disco in libertà come The Party, musica in libertà senza nessun cerchio ristretto, ma in libertà totale, e il tuo modo di far musica è questa, Tobia, secondo me. Sì, assolutamente, non ci stanno schemi, ma non... esatto, non ci sono schemi. Non è un modo di dire, diciamo, nel senso non è nemmeno una ricerca di non avere schemi, è che veramente il disco è stato suonato in un modo con una ricerca, poi è stato mixato da Matilde Davoli, che ha degli ascolti assolutamente lontani dal country e dal folk americano. E come lo intendevamo con i Sellers, quindi è uscito anche nella produzione, nella ricerca c'è una miscela diversa, appunto, dove io non volevo che venisse mixato, diciamo, in maniera classica. Ho detto a tutti quanti: dovete suonare per come suonate, per come vi viene. Quindi questo ha aiutato, diciamo, a essere abbastanza libero e così avere questa libero ed alternativo, secondo me, decisamente alternativo, ma nel senso positivo del termine. Andiamo avanti, allora sentiamo un altro pezzo. Abbiamo scelto la traccia numero 2, la sentiamo e poi ne parliamo un poco, Tobia, ok? Something, the sock about you. can do what you want. Let's talk about deadline. Gather me the joy. Let's talk about movies. And I could sell my soul. Let's talk about glory. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Bellissimo. Questa America, America in, a Salerno, nel Salento, nella masseria Lobello. Tobia, è così, perché nasce tutto dalla masseria Lobello. Lobello Rex è la tua etichetta praticamente. Sì, esatto. Sì, ed è nata proprio perché avevo l'esigenza di, appunto, proprio per ritornare a un discorso di libertà, di produrre in... come volevo, nei tempi che volevo, che desideravo, e produrre anche i dischi che desideravo, insomma, e, essendo, diciamo, libero da ogni possibile contrattazione. È vincolo di etichette, insomma, praticamente. Sì, poi in realtà, diciamo, ecco, possiamo dire anche, potrebbe sembrare anche un po' snob quello che sto dicendo, ma poi in realtà è anche un dato di fatto quello che... Adesso viviamo un momento per la musica che non sono più gli anni 80 e gli anni 90, certo. Quindi dove giravano tanti soldi intorno alla musica, quindi in realtà poi il do it yourself adesso funziona veramente. Sì. Io ho incontrato per strada tanti musicisti che hanno venduto migliaia di dischi suonando in giro magari in un anno. E loro dicono, ovviamente noi non possiamo essere nelle classifiche perché negli Stati Uniti non considerano tutti questi dischi venduti, però fatto sta che quest'anno ho venduto 4.000 dischi, che sono tantissimi per adesso, certo. E funziona, c'è una maniera diversa di veicolare la musica che è il futuro. Che è il futuro, le major non hanno un grande senso, un grande valore in questo momento, secondo me. E in questo c'è sofferenza da parte di tutti, perché ovviamente manca un supporto, e c'è bisogno di reinventarsi tutto il mercato discografico con molta fantasia. Certo, hai detto una cosa giusta, reinventarsi. Ricordo che questo aspetto del comune, della comune musicale libera, c'è un altro significativo esempio in Italia, adesso è un po' ridotto, era il clan di Celentano, Tobia. Il clan di Celentano è stata la prima vera e propria comune musicale, assolutamente autogestita, anche se poi la distribuzione era da CGD, di una grande major, ma l'autogestione partiva sempre dalla mente di Celentano, era un clan di musicisti che suonavano assieme a Celentano. E Lobello Masseria, Lobello Records, è un clan di musicisti che suonano assieme a Tobia, c'è poco da fare. Sì. Con diverse derivazioni e varie ed eventuali, però insomma sì, più o meno è così. Poi considera che ad esempio il mio chitarrista, il chitarrista che suona Lapsi nel disco, sì, ha un altro progetto, Americo Peratti e Marco Ancona, il mio chitarrista è Marco Ancona, sì, che produco con Bello Records, quindi c'è, diciamo, è veramente una grande famiglia, tra virgolette, certo, certo, abbastanza freak, abbastanza divina, sì, abbastanza freak, cioè libera da imposizioni, musica che vuoi fare, che vuoi portare avanti, ed sì, si sente il discorso del surf, perché in copertina c'è un surf, nel Salento il surf, anche questo è significativo. Sì, sì. Sono appena tornato dalla spiaggia, tra l'altro. Ah, tra parentesi. Sono un po' di onde, sì. sì, io in realtà ho scoperto tutto questo, ho sempre detto che questo disco è molto legato al mare, perché tutto questo inverno l'ho passato in acqua, appunto. Ed è qualcosa in realtà, ecco, non so, Jack Johnson, sì, Jack Johnson lo conosciamo bene, cioè. Chi è Jack Johnson? Ha fatto del surf una via di musicale, possiamo dire. però ho apprezzato tutto questo discorso, ed è nato un grande sodalizio insieme ad alcune persone che, mentre io porto avanti la musica nel Salento, queste persone portano avanti il surf nel Salento. Certo. Da qui nasce anche il tour che si svilupperà, diciamo, da settembre-ottobre, che avrà come prima tappa l'Irlanda, e si chiamerà Singing on Water, e praticamente gireremo noi, Sellers, insieme a un surfer salentino e a un videomaker. Andremo a scovare, diciamo, un po' in giro per l'Europa dei posti dove ci sono rock and roll e onde insieme. Ecco, bello. E quindi faremo questo piccolo documentario a puntate, che poi uscirà su questo sito, si chiama surfinsalento.it, che consiglio a tutti gli amanti del surf. Benissimo. E comunque, insomma, sì, ecco, è una cosa. Il surf, la psicheria c'è. Certo, c'è. Cioè, il freak c'è. Sì, il freak c'è, in ogni caso. Tanto mi in mente anche il surf per un motivo semplice: è uscito il nuovo disco dei Beach Boys, tu lo sai sicuramente. Ma sono in tour in Italia, stiamo andando tutti, ovviamente. Esattamente. E ho visto, sono già nelle classifiche, chiaramente, Billboard negli Stati Uniti. E dopo tanti anni è uscito un nuovo disco dei Beach Boys, e il surf. Chiaramente non è più il surf di una volta, però questa onda che continua, ritorna e non se ne va mai, è una cosa decisamente positiva. Sì, vabbè, poi i Beach Boys o fai surf, non fai surf, comunque quando li ascolti, cioè, ci sono delle cose dentro che sono assolutamente... Brian Wilson, cioè, ecco. Qua non possono arrivare telefonate, no. Diciamo, Brian Wilson sullo stesso gradino di Bob Dylan, non mi spaventa a dirlo. Quindi è un genio assoluto, c'è poco da un fare. Un genio assoluto, quindi basta. Basta. Abbiamo, parlando di Brian Wilson, abbiamo già capito dove è arrivato e dove tanti altri stanno cercando di arrivare, ma non sono mai arrivati dove Brian è arrivato Wilson, lui. La cosa geniale che ha avuto lui è che che lui non è mai andato né sul surf né in spiaggia, è vero. Quindi questo immaginario che ha lui, che canta, che ci fa arrivare tramite le canzoni, è come, non so, è la stessa. Mi viene in mente un film che si chiamava Leningrad Cowboys Go to America, dove c'erano questi tipi che dalla Russia andavano negli Stati Uniti per fare successo con questa band rockabilly russa assurda, con le balalaiche, che avevano dei ciuffi così rockabilly che non erano più rockabilly, perché erano dei ciuffi di un metro. Quindi questi scenari di surf di Brian Wilson in realtà probabilmente non esistono, però sono così romantici che sono geniali, che sono poetici. Esattamente. Adesso passiamo al singolo bello, interessante, che fa movimento, che ha un certo stimolo. Come mai hai inventato questo singolo, hai voluto questo singolo in questo disco, Tobia? Perché adesso si chiama singolo, possiamo dire, sì, un pezzo trainante, possiamo dire così, dai. Sì, il singolo, sì, Ma guarda, secondo me questa è stata una scelta un po' data dall'esperienza di DJ che esatto. Insomma, quando mettevamo questo singolo l'ho testato un po' di volte, la gente lo apprezzava, mi vedevo un po' il DJ da locale a questa il termometro, diciamo, degli sculettamenti. Quando mettevo questo singolo, cioè il termometro si alzava, quindi c'era un po' di sculettamento in più, e quindi ho detto: ma vabbè, facciamo questo. Bene, lo sentiamo Burning Soul, Tobia e The Sailor, Tobia la mare del Sailors. Thank you. sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, Tobi, abbiamo sentito questo singolo Burning Soul, un singolo che parte dal calipso e poi diventa un frenetica corsa al piano. Sì. Sempre per parlare, cioè per dire che insomma non ci siamo fatti troppi problemi. No, assolutamente. Altre cose insieme, quindi. Però è uscito bene alla fine. Trasporta. Ci siamo divertiti molto. E si sente che giustamente, tu hai detto giustamente, il DJ vuol dire dà un certo peso, il DJ ha predisposto, ha fatto sentire al pubblico Burning Soul, il pubblico ha cominciato a farsi prendere, trasportare, e chiaramente un pezzo che trasporta, che fa divertire musicalmente parlando. Sì, assolutamente. Adesso diciamo i riferimenti, Tobia, dove si può acquistare il tuo disco? Allora, il mio disco è distribuito in tutta Italia e da Goodfellas, quindi se andate in un negozio di dischi potete ordinarlo o trovarlo lì, se qualcuno ha ancora la passione di entrare in un negozio di dischi, è una cosa che a me piace un sacco. Oppure si può trovare dal nostro sito www.tobialamare.com, sul sito della Lobello Records, lobellorecords.com. Si può acquistare tramite PayPal la copia fisica, oppure su tutti i siti di MP3, iTunes, Amazon, eccetera. C'è sia il disco fisico che il disco in digitale. Mm-hmm. Benissimo. Adesso io ho scelto, dopo l'ultimo pezzo lo facciamo scegliere a te, Tobia. Io ho scelto un pezzo che sono due settimane consecutive che lo... dal punto di vista musicale lo mettiamo su qui in radio come non dico il singolo, non è un singolo, però il pezzo che a me è piaciuto particolarmente si chiama Lisa, è un pezzo beatlesiano fino al midollo. Guarda, Lisa è proprio qui con me perché Lisa è mia figlia. Ah, bene. Sto passeggiando in questo momento. La salutiamo, ciao Lisa. Il pezzo l'ho scritto un mese dopo la sua nascita. E niente, è così. È una balla, possiamo dire una balla, ad un tuo pezzo, un tuo omaggio, tra virgolette, all'epopea beatlesiana, ma fatto da te. È molto bello per quello, secondo me. Sì, beh, poi c'è un grandissimo contributo di Gianluca De Rubetti, il pianoforte, che la rende ancora più beatlesiana. Esattamente, bisogna dirlo, bisogna dare merito a Gianluca De Robertis. A voglia. Ok, sentiamo Lisa allora. Ok. When the wind goes down, a new star is born, and it comes to my home at the end of March. And Love. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, Tobia, bellissimo. Beatles, ma anche Small Faces, anche Kings, secondo me, bellissimo. Un pezzo bellissimo, trascinante, secondo me. Grazie. Mi è piaciuto un sacco, l'ho messo su un sacco di volte, perché merita assolutamente. Le date, Tobia, se hai qualche data. Allora sì, noi avremo qualche data qui in Salento per quest'estate. Il 13 luglio al Soul Food c'è Suoneremo insieme a Gerwig Gunn. Bene. E poi sicuramente uscirà qualcosa per l'estate qui. E mentre il tour vero e proprio inizierà da settembre-ottobre. Le prime date sono in Irlanda. Poi ci sono delle date in Italia, Roma, Milano sicuramente, poi andremo in Portogallo, Spagna. Ah, benissimo. Olanda, Inghilterra, siamo in fase di costruzione del tour. Bene, Padova no, Tobia, no? Padova, ma guarda, spero proprio di sì, perché mi piacerebbe un sacco anche conoscervi e magari venirvi a trovare. Esatto, facciamo un piccolo set acustico, visto che la volontà di fare live, di sudare, come ha scritto un critico, sudare, perché si faceva. Tobia ha fatto un disco come si faceva una volta, bisogna dire queste cose, è così, è il tuo spirito, Tobia. Sì, beh, come si dice, vecchia scuola. Vecchia scuola. Per il rock and roll è sempre la via migliore. Certo. Tobia, dobbiamo concludere purtroppo l'intervista, però vogliamo che tu scelga assolutamente l'ultimo pezzo per concludere questa sì, carrellata piacevolissima con la tua musica. Ricordiamo il disco, si chiama Tobia Lamare, The Seller, Are You Ready for the Freaks? Lo Bello Records. Bisogna sottolineare questo. Sì, allora io sceglierei Are You Ready for the Freaks, perché... Che la traccia... L'ultima, benissimo. Questa è una... La numero 9. 10, mi comuni... la... Agostino mi ha detto la numero 9. Ok. Perché ha un senso, appunto, di quello che può... della nostra piccola factory Tobia, correggimi se non sbaglio, Step Beat è l'ultima traccia, giusto? Step Beat sì, è l'ultima. Allora quella è la penultima. Allora, quindi è la numero 10, sì. No, la numero 9. Ah, la numero 10 sì. Are You Ready for Bricks? Sì, sì, è il numero 10. Bene. Okay, questa era anche la title track. Noi ti ringraziamo, Tobia, per questa bellissima carrellata. Ti aspettiamo quando, se per caso, fra i grandi tour che farai all'estero, se un buco per Padova può darsi che venga fuori. Ma io lo spero veramente tanto. In ogni caso è consigliabilissimo, cari ascoltatori, questo nuovo disco di Tobia e The Sellers, Are You Ready for the Freaks? Lo Bello Records, ricordiamo, un'etichetta autogestita da tutta la comune salentina praticamente. Grazie Tobia. Grazie a voi. Ciao, grazie. Sometimes think I'll travel, but troubles keep on knocking my door. And my dogs so barky 'cause they are so lazy to make me happy. Well, my mama used to tell me that sometimes we should just wait. Like when the wind blows on grain, up and down but never break. I'm almost 36, but I could be 44 or 23. Cause when I was born, my mother gave bird to a freak. I never stop dreaming and I never stop looking at the rain. Then wash up the chorus of fields and make the waves so big. Are you ready for the breeze? Are you ready? Are you ready for the breeze? Are you ready? A crazy baby, just a man who takes care of his own. With the door always open to everyone who loves rock and roll. Well, my mama used to tell me that sometimes we should just wait. Like when the wind blows on rain, rough and diamond never break. Are you ready? Are you ready?